Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Oh, fragile fanciulla, tu che inseguivi i sogni di gloria e andavi verso la capitale con la tua valigina di cartone, sperando lì avresti trovato la gloria. Ti rivedo finalmente passare nel mio scompartimento, ti vedo felice e ti vedo anche molto acchittata. Quindi tu hai fatto fortuna? E questa è la mia introduzione a Masha, che ritrovo finalmente seduta davanti a me. Ve la ricordate? La povera fanciulla artista che fuggì dalla Puglia, dove metteva in scena un fantomatico spettacolo, dove si alternava la pizzica con il tamburo giapponese, arrivò per ben altre suonate nella capitale. E sentiamo cosa gli sta accadendo. Sei bella abbronzata, è anche fuori stagione, come mai? Ho preso sole. Ho preso sole, sì. Perché sono stata in barca a vela. Ah, non è il sole della Puglia, la tua terra natale? Anche, ma infatti il sole comunque mi bacia anche quando cammino. Sì, non sarà solo problema. Il sole. Senti, chi ti ha portato in barca? Degli amici. Degli amici. Ti hanno detto vieni cara a fare un giro in barca. Quanti eravate? Mio carissimo, eravamo in 9. Era comunque un 16, sì, in realtà eravamo tutti equipaggio, perché sono stata su una barca a vela che fa regate e infatti veniva dalla regata della Palermo Monte Carlo. Ma tu sei capace a governare qualcosa? Una barca? Qualcosa sì. Sì, sto cercando di prendere una patente nautica. Quanto tempo siete stati in mare? Siamo stati una settimana di navigazione. Beh, racconta episodi, allora, truci, cosa è successo? No, allora abbiamo visto i delfini. Sì, vabbè, sembra la gita scolastica, dai. Dai, uno non porta Masha in barca così per vedere i delfini, dai. Per vedere i delfini. No, c'era un secondo scopo sicuramente, chi ti ha chiamato, dai. No, no, assolutamente no, non è successo niente. Ma è successo, no? No, ma perché già gli intrighi c'erano già in barca, sì, prima che io arrivassi. Che non ti riguardavano? Non mi riguardavano. Quindi c'era un intrigo... Sì, sì, ma l'intrigo in barca che vuol dire? Tu conosci una persona per fare il grande, il gradasso, la porti in barca? Beh sì, diciamo nell'immaginario comune, però generalmente se una persona, un uomo vuole fare con quello splendido, se la porta in barca a motore, non generalmente in barca a vela, perché già sa che la barca a vela è una fatica bestiale. Esatto. Il motore fa il gradasso lì. Esatto, fa il gradasso, soprattutto c'è anche la parte della letto prua. A sei piazzi. Esatto. Sotto. Sono stato al salone della nautica tempo fa e devo dire c'è di tutto dentro le barche, c'è di tutto, ma nemmeno un grand hotel ormai. Sì, sì, ci a quello serve la barca. Io che non sono montanaro o contadino, ho capito cosa servono le barche. Sì, ci sono anche quelle stralusso con i salottini. Vai in alto, quindi... mare, butti l'ancora, dici adesso e ciao o ti metti a fare una sì, bella nuotata. Devo dire sì, appunto. Invece la barca a vela è una diversa concezione. Beh, del certo. Mare, per cioè non donne appassionate di mare. Esatto, diciamo. Anche perché comunque si soffre anche il mal di mare in caso di... Hai vomitato? No, io sto benissimo. Tu sei marinara, io sono marinara, pugliesissima. Ma ci sono queste signore che vanno con i tacchettini in barca? Non si può. Sì, lo so, ma se li porta indietro? Sì, è successo. Con lo smalto sulle unghie che sportano? Sì, ma assolutamente l'armatore non li fa neanche entrare, cioè nel senso che comunque anche chi viene in tacchettini ha l'obbligo di togliersele. Quello è logico. Poi che si riportano a fare, non ho capito. Se li mettono a letto, nel letto a sei piazze, la sera mettono i tacchetti. Quello servirà, quello. In realtà non è servito neanche dove siamo stati, perché comunque erano dei centri storici abbastanza impervi, quindi anche quando si raggiungeva la terra erano dei luoghi inospitali per i tacchetti, infatti io ho evitato. E vabbè, questa era la fine, peggio per loro. Beh, com'è andata la conclusione? Allora, la conclusione è che è stato molto stimolante. Tu non mi dici che facevi il mozzo lì, non facevi pulire no, il ponte? No, assolutamente. Avevi anche tu il tuo intrallazzo, dai. Sì. Per dirlo, cioè mica sono tuo fidanzato, no. Tuo padre, non ti giudico, sono contento. No, però non l'ho vissuto molto l'intrallazzo. Cioè, beh, però l'intrallazzo comunque sportivo che ti porta a governare una barca a vela, quindi sì, è un interesse comunque concreto per la persona, non è speculativo per, lo, per diciamo che l'intima d'azione, ti porta lì per fare una bella largata. Sennò... No, in realtà il mio intrallazzo era bravo in cucina, quindi era quello, era lo chef. Quindi... E tu aiutavi in cucina? No, io lo aiutavo a mangiare. Ovviamente se no ti portava motore, scusa. Scusami, infatti. Se un uomo ti invita sulla barca motore, sai che è uno scannatoio galleggiante. Se ti porta sulla barca vela, è un sano interesse a condividere con te un'avventura. Esatto. Esattamente. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Senti, ma dove vivi adesso a Roma? Ti sei sistemata? Allora, ancora no, faccio la zingara. Dalle suore stai, no? No, adesso ho trovato... Allora, questa è stata divertente. E la tua amica, quella lì famosa, che usciva tutte le sere? C'è ancora. Anzi, stasera la vedo. È sempre specializzata, diciamo... Sì. Diciamo, nel continente africano. In frequentazioni di uomini di colore. Africani. Sì. Finalmente, dopo tante discriminazioni, una che apprezza. Quindi lei, diciamo, soltanto quartiere africano a Roma, sì. Luoghi frequentati da africani. Sì, assolutamente. Beh, infatti, si è fidanzata con l'ambasciatore del Congo. Con l'ambasciatore del... vero? Sì, lui dice sembra, di sì. Sembra un film di Totò, dai, l'ambasciatore del Congo. Ma vive all'ambasciata lui? No, comunque strano, frequentazioni. Cioè, ma lei l'ha mai seguito l'ambasciatore? Cioè, l'ambasciatore del Congo avrà una macchina lunga da qui alla giù con 70 guardie. Questo con che gira? No, lei l'unica cosa che mi dice è che lui si veste molto bene. È un uomo molto elegante. Vai ai magazzini massa Piazza Vittorio con 10 euro ti compri tutto quello che vuoi. No, credo che abbia comunque quel ruolo lì, perché comunque. Ma l'ambasciatore è un personaggio grosso. Di conoscerlo. Ma l'ambasciatore non gira solo per strada. Non lo so. Non va in metropolitana. No, non va in metropolitana. Quando diciamo. No, con, macchina. Dove, in macchina, lui ma guida lui? Macchina, guida lui. No, l'ambasciatore non guida lui. Allora, che macchina? No, non lo so, non lo ricordo. Ma dai, è una bufala, dai, poveretta. Ma dai. È così, l'ha intortata. L'ha intortata sicuramente. Ma non lo so, ma comunque infatti non la porta mai fuori a mangiare. E dove mangiano? A casa di lei, cucina lei. Quindi, scusa, l'ambasciatore dovrebbe avere uno stuolo di servitore all'ambasciata. Infatti è quello che stavo cercando di fare. Lui va a casa sua mani e ci posa l'ambasciatore. Sì, cioè, stavo cercando di farle capire questo. Ma lei non gli può chiedere... persa. Beh, chiaro, gli può chiedere le credenziali. Fammi vedere le credenziali di ambasciatore. Sì, gliel'ho detto, e assolutamente. Lei niente. Non, quindi adesso indagheremo. Ma lui lavora durante la giornata? Come passa la giornata? Sì, no, fa... Dove va? Esce e dice vado a lavorare. Vado in ufficio. Ma c'ha un grosso borsone sotto braccio e corre spesso, no? No, non lo so. No, devo dire che è comunque una persona molto distinta. Dopo di questo... distinto, anche un truffatore può essere distinto. Assolutamente. Ma la tua amica, diciamo, ha qualche soldino da parte? No, niente. Ha dei beni al sole? No. Quindi non c'è un interesse economico, no, sicuro? No, c'è un altro tipo di interesse. Ma lui è sposato? Cosa dice? Sì, lui è in realtà... Divorziato, naturalmente. Divorziato, vive ma come un fratello. Esatto, vive come un fratello. Come un fratello, sì. E la moglie dove sta? In Congo o in Italia? Quante ne ha in Italia? Non lo so, io sospetto. Beh, la sua lei non domanda diverse. Queste cose basilari. Però comunque la storia della moglie ha anche un figlio. Sì. Che vivono praticamente sotto lo stesso tetto come amici. Allora, se è un ambasciatore dovrebbe vivere all'ambasciata. Ma lei non l'ha mai seguito quando va a lavorare? No, non l'ho mai seguito. A me come fa a fidarsi così? Uno non si fida mai. Non lo so, infatti le faccio anche io queste domande, ancora non ho avuto risposta. Siete nel momento che è così persa d'amore che gli potrebbe dire qualunque cosa. Sì, infatti, sono il presidente del Congo. Ma che... lei è anche convinta che lui sia assolutamente, follemente innamorato di lei, che abbia essere. Solo lei come donna. Beh, tanto lei lo sfama, che già mi sembra un passo fondamentale. Infatti gli ha regalato anche un set di pentole. Lui a lei? Sì. Beh, un regalo proprio d'ambasciatore. Cioè l'ambasciatore del Congo quando ha un amante regala un set di pentole. Sì, infatti. Sono quelle che lei deve usare per far da mangiare a lui. Lei non è rimasta molto bene, perché si aspettava almeno un profumo. Beh, il set di pentole li vendono nei mercatini, ti giuro, con 30 euro prendi tutto. Ma comunque era bello, il set di pentole l'ho visto. come dire, devi metterti a cucinare, è proprio una profezia. Sì, sì, sì, assolutamente. Una destinazione. Detto... Senti, e le loro folli notti d'amore dove consumano? A casa vostra? No, ah sì, esatto. Quindi tu la notte senti urla disumane. Belluine, sì, no, io generalmente vado via. Lei urla via. Molto, beh, ti immagino. Ma l'ambasciatore nemmeno uno straccio di stanza d'albergo c'ha per portare un amante. No. Visto che lei ha la casa qui a Roma. Ma lui è un ambasciatore. Non lo so. Cioè, le ambasciate sono enormi, hanno le foresterie, hanno tutto. Sì, hanno, sì, sicuramente. Hanno le vere ambasciate con i veri ambasciatori. Sì, solo lei e lui gli fa solo vedere delle foto in cui. Beh, quelle, cioè, guarda, il telefono che vuoi vedere. Cioè, dove lui comunque. Con Photoshop attacchi tutto. Sì. Potrebbe essere anche il barbiere del presidente del Congo. Vabbè, scopriremo vivendo. Insomma, che. Lei è molto presa. Lei è molto presa. Ma lui ha fatto richieste tipo: sarebbe bello sposarci? No. No, non credo. Ma anche perché lei sicuramente già sa che proprio nella che mentalità comunque sì, anche di questa popolazione sono estremamente diversi da noi, ma anche il rapporto col proprio partner lo vivono completamente, in modo completamente diverso. È chiaro, questo sì. È logico, questo è stupido non pensarlo, è logico. Sì. Le donne hanno un'altra condizione. Hanno un'altra condizione. E lei non gli andrebbe, quindi, naturalmente. No, assolutamente, no. Quindi vabbè, si prende il meglio, prende l'amante focoso. Sì, ma infatti è soddisfatta da quel punto di vista. Sì, sì, da quel punto di vista. Grazie. Sì, no. Non si converte a un uomo italiano. Ma non torna niente. Più indietro. Non torna indietro. Io ho cercato di dissuaderla, anche perché comunque voglio dire, non è anche bello avere un compagno, sì, peraltro. Ma non. Al di là di quello che si dice, la decrescita non è mai felice. Ormai. Lo so. E infatti no, infatti, rimane tranquilla. Così, lei tranquilla. È il passo successivo che sarà impegnativo. Sì. Non so dove si può rivolgere. Comunque. Vabbè, sì. Adesso diciamo dal punto di vista professionale invece, sì. Fu un maggio che ci incontrammo in treno e tu, sì, mi raccontasti che arrivavi a Roma in cerca di fortuna con la tua valigina di cartone. Sì. Ecco, l'hai trovata un po' di fortuna a quel punto di vista? Non proprio. Mi sto comunque dedicando. Comunque. È un ambiente, sì, difficile. È un ambiente difficile, comunque bisogna essere sempre molto presenti. Io invece in quest'estate comunque sono rientrata, sì, diciamo che mi sono occupata più di me stessa che della mia carriera. E adesso sono rientrata a Roma. Vabbè, più rinvigorita. Cara, mi auguro che anche questo viaggio abbia una destinazione per te fortunata. Grazie. Proficua la tua vita, i tuoi amori e la felicità della tua amica. Ciao. Grazie Gianluca, ciao. Ora, proprio perché so che ci ascoltano tante persone e so che molte volte l'ironia è difficile da cogliere, non vorrei che adesso si facesse viva l'ambasciata del Congo e protesti. È chiaro, è palese, mi sembra assolutamente quasi inutile doverlo specificare. È logico che questo ragazzo è un sola, come dicono a Roma. È logico che non ha nulla a che fare con l'ambasciata del Congo. È logico che è una panzana che racconta per riuscire a giustificare la sua presenza nella tavola e nel letto dell'amica, della nostra amica. Mai, nemmeno per un istante, ci viene il dubbio che questo signore che regala pentole, che non ha una fissa dimora, che va da una ragazza a piedi prendendo l'autobus, possa lontanamente avere a che fare in realtà con l'ambasciata del Congo. Quindi siamo già sicuri in partenza che tutti capiranno che ci troviamo di fronte a una versione congolese di Totò e Peppino e della vendita probabile della Fontana di Trevi. Non mi era mai capitato prima di vedere una persona che nel suo smartphone, invece di guardare delle foto di persone, di paesaggi, di oggetti, di piatti da cucina, di ristorante, di viaggi, di vacanze, guarda foto di antenne. Sto guardando da 20 minuti questo signore e sta sfogliando un grande interesse, l'una dopo l'altro, foto di antenne. Sì, dei tetti con delle antenne. Voi direte che c'è da guardare. Anch'io me lo domando. Perché è interessato alle antenne? Fa l'antennista? Ha qualcosa a che fare comunque con la ricezione? O comunque è semplicemente un cultore dell'estetica dell'antenna? Non posso fare a meno che domandarglielo, ma ho già capito qual è la risposta. Perché vedo un libro che parla di radioamatori. Qual è il senso di essere ancora radioamatore? Ma io faccio sempre un esempio. Per andare da Genova alla Sardegna, peraltro anche la mia terra d'origine, uno ci può andare o con l'aereo, o col traghetto, o con la barca a vela. Ci arriva lo stesso. Con l'aereo ci mette poco, con il traghetto un pochino di più, con la barca a vela è ovvio che ci metterà qualche ora di più, però deve sapere come si naviga, deve conoscere i venti e deve avere una sua, deve farsi una sua cultura personale, e il suo arrivo in porto sarà sicuramente molto più gratificante che non andarci in aereo o in traghetto. Se uno lo fa per lavoro o per business, sceglie il mezzo più veloce; se lo fa per soddisfazione personale, sceglierà sicuramente la vela. Questo è un po' il senso. Tutta questa operazione, che sa tanto di romantico, di lontano, di arcaico, è l'operazione in sé che vi affascina, o riuscite a toccare punti e dimensioni che noi nemmeno ci immaginiamo, quindi è giusto continuare a farlo? Lei ha detto il termine giusto, romantico. C'è sicuramente un po' di romanticismo nei nostri collegamenti. La rete, che peraltro noi usiamo e sfruttiamo appieno, non ci ha distrutto, non ci ha fatto scomparire. Certo, siamo un pochino meno di prima, dobbiamo, per fare un collegamento bisogna avere certo delle competenze tecniche, tant'è che noi sosteniamo degli esami specifici per poterlo fare, antenne, apparati, conoscenze, che se tu vuoi collegare qualcuno bisogna tenere conto della stagione, dell'ora, del periodo, di quante macchie solari ci sono, tutte cose molto complicate, ma l'essenza stessa del collegamento, la sua, ma io la chiamo la magia del collegamento, sia che tu parli con uno in Francia, uno in Nuova Zelanda, è la magia che mai nessuno smartphone o la rete o computer ti potrà mai dare. Ecco perché penso che siamo sopravvissuti ai telefonini, alla rete, e probabilmente sopravviveremo anche a qualunque altra diavoleria era fuori tra qualche anno. Il treno va. Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Quindi capisco, proprio è un esercizio romantico di tecnologie desuete, o per il piacere di continuare a usarle, come una rivocazione, come è un'operazione più medianica che mediatica. Io pensi, poco prima di salire su questo treno ho parlato con mio figlio che sta a Seul, ho acceso il telefono, ho chiamato via Skype, lui sta della sua università, abbiamo chiacchierato un quarto d'ora come se fossimo accanto. La stessa cosa fatta attraverso il suo sistema, cosa mi comporterebbe? Immagini che mio figlio, sia pure lui radioamatore, stesse a Seul e dovessimo parlare, ci trovassimo nel 1970 piuttosto che nel 2016, cosa dovrei fare? Ma innanzitutto dovresti avere tutte e due un minimo di dotazione hardware, antenne e apparati, e poi avreste 5 o 6 bande a disposizione per poter comunicare. Non sempre potreste farlo a seconda della stagione, dell'ora, dell'attività solare. Però c'è stata un'epoca storica, e lei se la ricorderà, in cui c'eravate soltanto voi per superare certe barriere. Ci si affidava ai radioamatori, mi ricordo, c'erano una catastrofe, qualcosa accadeva in un paese lontano, si interrompeva la radio, la televisione, ufficiali, ci si affidava ai radioamatori. Lei ha avuto la possibilità di vivere e lambire ancora quest'epoca in cui eravate fondamentali? Mi ricordo perfettamente quando noi eravamo l'unico sistema di comunicazioni durante delle grandi catastrofi. Penso al terremoto del Friuli, che fu la prima grande emergenza in Italia in cui i radioamatori furono fondamentali. Anche oggi, a dire il vero, possiamo dire la nostra, speriamo ovviamente di non dirla mai, ma se lei pensa alla complessità della rete dei cellulari e della rete, sono efficientissime, ma hanno un punto debole, che in una grande catastrofe o grande emergenza possono andare giù in giro di pochi secondi, e per riattivarle ci vuole il suo tempo, e in questo lasso di tempo, che è fondamentale per gli aiuti, per i soccorsi, noi con le nostre, in questo caso sì, povere attrezzature possiamo essere di grande utilità. Faccio un'altra ipotesi. Improvvisamente nel nostro paese si instaura un regime tale per cui viene chiuso internet, viene limitato e censurato. Voi riuscireste a sopravvivere? È difficile, perché poi le antenne si vedono, è difficile nascondere un'antenna. Come in periodi di crisi o di difficoltà o di oppressione politica riescono a sopravvivere i radioamatori? Oggi quale tecnologia c'è per far sì che possiate continuare a trasmettere senza essere necessariamente intercettati? Io immagino che lei avrà un'antenna sul suo palazzo che la farà litigare dalla mattina alla sera con gli umarelli del condominio o qualcosa del genere. Ma peraltro è stata messa su pochi giorni fa, quindi ancora non ho avuto modo di godere delle attenzioni dei miei vicini. Perché c'è pregiudizio verso di voi? Quando mettete un'antenna cosa penso? Siete spie? Siete qualcosa di strano? No, forse qualche anno fa, decennio fa, sì, oltretutto qualche decennio fa si era anche molto più controllati in periodi di guerra fredda. Svaluta l'appartamento. Ma invece le parabole sono belle, quelle che mettono sui tetti. Mai fatto, cioè, non vedo grande. E poi la cosa fondamentale è che fa male alla salute. Rispondo una volta per tutte, non credo che l'antenna che trasmette. No, assolutamente no. Soprattutto quelle dei radioamatori, anzi, più sono grandi e meno fanno male, perché lavorano su frequenze che sono assolutamente innocue. C'era anche la storia che interferivamo con le trasmissioni televisive, adesso col digitale terrestre molto molto meno, e poi tenga conto che se un radioamatore con un impianto assolutamente normale non fa vedere la TV a qualcuno, la colpa tra virgolette è che l'impianto TV di chi viene disturbato in genere è vecchio e fuori norma. Ma per rispondere alla sua domanda sul totalitarismo, tenga conto che tuttora in alcuni paesi il servizio di radioamatore viene vietato, uno per tutti, la Corea del Nord, un classico naturalmente. In Corea del Nord non possono esistere radioamatori? Assolutamente no, non sono, cioè non, infatti noi diciamo che è uno di quei paesi che non viene mai collegato e tutti aspettano che si dia il permesso almeno a uno. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Senta, ma chi sono oggi i radioamatori? Ormai sarete molto meno del passato, quindi vi conoscerete di più e vi conoscerete meglio. Una volta c'era questa immagine un po' di un signore che magari la sera, quando tutti dormivano, si metteva davanti alla radio e girava per il mondo. Ho in mente i fratelli Judica Cordiglia, quelli che intercettavano gli astronauti russi persi nello spazio. Sono andato anche a trovarli, è una cosa fantastica. Ma era un barlume degli anni appunto della guerra fredda. Oggi il radioamatore chi è? Ma tenga anche conto che c'era una tecnologia, tra virgolette, considerata obsoleta, ma in realtà il radioamatore è uno sperimentatore. Si sperimentano, anche oggi noi sperimentiamo cose nuove, collegamenti per esempio via Luna, c'è un sistema di trasmissione molto interessante in cui uno trasmette verso la Luna, il segnale rimbalza, arriva sulla Terra e il corrispondente sente si fa rimbalzare sulla Luna. Sì. È fantastico, no? È anche romantico, sì. Mandare un messaggio che ha toccato la Luna, pensi un po', sì. Ha un suo valore emotivo. Mando un messaggio a una persona innamorata e dico: questo ha rimbalzato sulla Luna e ti arriva fino a te. Molto meglio che un SMS o WhatsApp, di sicuro, al 1000 per 1000. Ma sicuramente sì. Ma poi ci sono anche degli studi per esempio sui terremoti, sa che cercare di sapere in anticipo dove potrà venire fuori un terremoto è una cosa da sempre che tutti cercano, e anche noi nel nostro campo abbiamo un campo di ricerca e precursori sismici in cui insomma la rilevazione di onde radio prodotte dalle faglie che fregano tra di loro potrebbe, perché ancora è lo studio sperimentale, potrebbe avere un qualche valore. Può essere decifrata, può essere. Senta, lo sa che lei mi ha fatto avere un flashback ancora sono emozionato. Lo sai che io sono radiotelegrafista? Non me lo ricordavo più. Io ho fatto il militare come radiotelegrafista, ho fatto anche 2 mesi di corso. Ho fatto trasmissione morse e ricezione morse. Me l'ero dimenticato completamente. Sono stato 2 mesi a San Giorgio a Cremano, c'era la scuola trasmissioni. Ho fatto il morse anch'io, me l'ero dimenticato. Ore e ore, tutte le mattine, col pulsantino. Ero negato, non capivo nulla, però ho dato gli esami, sono passato. Non sono ricordato adesso. Chissà se mi ricordo ancora. Aveva rimosso questa... Sì, l'avevo rimosso, anche perché in contemporanea c'era stato il terremoto lì vicino a quelle parti, proprio gli anni del terremoto, mi sembra l'80-81. Quindi era più il tempo che ci mandavano a spalare per fare le casette per i terremotati che la scuola trasmissione. Però una scuola trasmissione, mi ricordo. E studiavamo le radio sulle vecchie radio americane, ancora quelle della Seconda Guerra Mondiale, negli anni 70. 80, anzi anni 80. Si rende conto, nel 1980 la scuola trasmissioni dell'esercito italiano era fatta con le radio 45, quelle americane ancora. E mi ricordo che mi insegnarono che non si dice passo e chiudo. Passo e chiudo c'è solo nei film, è vero? È vero. Ah, tenga conto che quelle radio su cui lei ha mosso i primi passi di radio telegrafista sono oggetto di un mercato, del cosiddetto surplus militare. Ci sono fiere, ci sono mercati in cui queste radio vengono contese a suon di euro, se sono danneggiate il gusto è quello di ripararle e di metterle in funzione. So che non le usa più nessuno oggi, quelle lì, figuriamoci. È come andare in giro con una balilla, la stessa cosa, anzi, ancora prima forse, probabilmente. Vabbè, mi ha dato un lancinante tuffo di ritorno al passato, quando gli anni che passano sono tanti, non c'è, dei ricordi rimangono seppelliti. Mi ricordo ancora le mattinate in quest'aula, in una scuola trasmissione a San Giorgio a Cremano, con davanti il pulsante dell'alfabeto Morse e con questo nastrino che usciva fuori, non riusciva a decifrare, ci metteva un sacco di tempo, ero proprio totalmente negato, però passai, fecero passare, forse feci loro pietà. La saluto, alla prossima, buone trasmissioni. Grazie. Il treno va. Ed ecco l'audiolettera e la storia d'amore. Amore, si può usare questa parola? Non lo so. La storia di unione. Unione. Non so cosa abbia a che fare con l'unione, quello che sto per raccontarvi. La storia di due persone che si incontrano e uniscono le loro solitudini. Così magari va meglio. Ma nella migliore delle maniere. Non c'è nessun azzardo, non c'è nessun rischio. Non c'è nessuna incomprensione, soprattutto è una storia cosiddetta pulita, normale, regolare. La classica storia tutte le donne vorrebbero. Lei non ha problemi, non ha impegni, lui non ha problemi, non ha impegni. E poi, ancora di più, vi anticipo soltanto questo, entrambi vengono da storie precedenti, entrambi hanno anche un corredo di figli, quindi non hanno nemmeno il bisogno di investire emotivamente sul cosiddetto orologio biologico. Sembrerebbe la storia ideale, la storia che tutte le oltre quarantenni vorrebbero avere per poter coronare finalmente il loro bisogno, desiderio di avere un uomo accanto. Ma la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Caro Nicoletti, una delle sue conversatrici ricorrenti che più mi divertono è la donna che lei ha battezzato come Lady Chat e che mi fa spesso pensare anche alle mie vicissitudini amorose, per quanto io non abbia mai messo piede, o meglio mano, ai siti di incontri online. C'è però qualcosa che ritrovo anche in me, o meglio negli uomini in cui mi imbatto. Io sono una 46enne separata, con 2 figli ormai grandicelli e quasi autonomi. Dopo tanti anni in cui la mia testa era troppo presa dalla gestione della vita per poter far accendere in me vere passioni per gli uomini e anche per un po' di disillusione, ho conosciuto un mio coetaneo, bello e intelligente, con cui ho cominciato ad uscire. Anche lui separato, con 1 figlio, per cui avevamo questo enorme vantaggio di non avere secondi fini procreativi e quindi ricattatori nella nostra relazione, che è stata improntata sin dall'inizio su una rigorosa autonomia e indipendenza reciproca. Ci vedevamo quando avevamo tempo e quando ci andava, nei weekend, in una serata in cui a entrambi piaceva l'idea di uscire o di andare al cinema. Dopo circa 8 mesi di storia felice e spensierata, arriva l'estate. Qui si apriva una prima questione. Che fare? Passarla insieme? Passare solo parzialmente un po' di giorni e il resto ognuno in famiglia? Ridarci appuntamento a settembre? Ma non c'è stato nemmeno il tempo di parlarne o pensarci. A metà giugno, lui mi dice che il figlio diciottenne, durante un check sanitario di routine, aveva saputo di essere affetto da una non so quale malattia rarissima ma molto pericolosa e che si sarebbe subito dovuto curare all'estero, in America. Me lo ha detto con l'aria più preoccupata che potesse avere. Dunque, sarebbe andato negli Stati Uniti a farlo visitare e curare per un paio di mesi. A questo punto, anche un po' angosciata per la sua situazione, gli faccio i miei più grandi auguri. Lo abbraccio e gli dico: sentiamoci quando ti pare. Io sono con te. Eh sì, se uno si prende il carico di una persona con tutto ciò che questa persona annette del suo passato, si prende anche carico delle sue difficoltà, dei suoi dolori, della possibilità che i figli comunque diano dei problemi. I figli danno sempre problemi. Se uno si accolla una persona con dei figli che aggiunge i propri figli, si prende tutto il pacchetto. Ma la nostra amica ha un cuore grande, la nostra amica è appassionata, la nostra amica è convinta di amare quest'uomo, è convinto che lui la ami, e quindi naturalmente non ha nessun problema a dirle: ti sto vicino, io ci sarò sempre, mi raccomando, sto vicino a te e tuo figlio. Quelle frasi che si dicono, si buttano così al vento, tanto per dirle, ma il conto sarà presto presentato. Nei 2 mesi estivi mi arrivano solo un paio di SMS di routine. Arriva settembre, torno dalle vacanze anche io e provo a chiamarlo. Non mi risponde. E poi mi scrive un messaggio in cui scrive: scusami, sono distrutto. Mio figlio è morto. Annichilita, gli mando un SMS invitandolo a parlarmi quando vuole. Immagino che con ogni probabilità si stia riavvicinando alla sua ex moglie, come è umano in casi come questi. Passa un mese e niente. Ora, devi sapere che io non avevo nemmeno un profilo su Facebook. Mentre un giorno parlavo con una mia amica di questa vicenda, lei mi dice: senti, mettici una pietra sopra. Chiaramente si è rimesso con la moglie. E io: d'accordo, ma sparire così? Non ha risposto nemmeno al mio SMS di auguri per il suo compleanno. È strano, dai. La mia amica mi dice che per curiosità vuole vedere il suo profilo Facebook. Gli chiede l'amicizia, lui ovviamente non ha idea di chi sia lei, ma è molto bella. E lui, dopo 5 minuti, gliela concede. Accediamo al suo profilo. Sulla sua bacheca vediamo tutti i messaggi di auguri per il suo recente compleanno, compresi quelli del figlio, che dichiara di essere orgoglioso di averlo come padre. Il figlio stava benissimo ed era vivo e vegeto. Della ex moglie non c'è traccia, non ce l'ha nemmeno tra gli amici. Sono ancora più annichilita, non credo ai miei occhi. E qui la nostra cara amica fa un errore imperdonabile. Va a dissotterrare il cadavere di una storia finita. Quando una persona con cui hai diviso comunque momenti felici, momenti problematici, ti dice chiaramente, senza possibilità di dubbio, che la cosa è finita, la cosa è finita. Inutile andare a ricercare storie, andare a vedere cascami, illudersi, chiedersi il perché. In questo caso mi sembra che la fine era drastica, era assolutamente priva di equivoco. Gli è morto il figlio. Di fronte a una tragedia così grande, cosa vai a cercare? Cosa vuoi sapere? Sì, tu volevi sapere se una volta morto il figlio magari questo stronzo tornava con la moglie e ti avrebbe roso l'anima se tornava con la moglie, ma cosa te ne importava? Su di te aveva messo una pietra sopra, un macigno gigante. Non esistevi più per lui. Perché andare a ritirare fuori, capire, vedere, investigare, entrare ancora nella sua vita e trovare l'amica complice che, bella, gli chiede l'amicizia su Facebook? E lui ha risposto. E ti accorgi che non era successo niente, una grande panzana. Si è voluto liberare di te nella maniera più drastica, nella maniera più inequivocabile, nella maniera più totale. È morto mio figlio, scusa, lasciami solo con il mio dolore. Trovo che sia una persona anche molto creativa, anche molto misericordiosa. Perché sei andata a porti in questa situazione che ti farà a lungo soffrire? La mia amica a quel punto mi dice di uscire e di andare a bere, che il mondo è pieno di altri uomini. Ok, d'accordo, ma santo cielo, se mi voleva lasciare, ma che diavolo di bisogno aveva di mettere su questa sceneggiata che mi ha umiliata? Non vivevamo insieme, avevamo e abbiamo figli ognuno per conto proprio. Sarà pur vero che la fuga con menzogna è, da quel che sento in giro, lo sport nazionale maschile, ma stavolta mi è davvero tutto incomprensibile. ma io voglio fare uno sforzo per non apparire come la solita donna lamentosa e mi convinco che probabilmente la storia che ti ho appena raccontato lui non l'avrebbe mai raccontata così. Se ha fatto morire persino il figlio, almeno a parole, la sua relazione con me, mi dico, doveva essere diventata un incubo. O invece ha mentito con la leggerezza e l'indifferenza con cui si può mentire a un bambino un po' scemo. Io vorrei che tu mi raccontassi com'è andata, secondo te, la nostra storia, dal suo punto di vista. Non ti mancano sensibilità ed immaginazione. Grazie, Laura. Mia cara, non farti più domande, ti farai solo male, e non dare la colpa genericamente ai maschi per questa sua uscita romanzesca, cioè perché ha messo di mezzo la morte del figlio, perché mi ha così umiliata, non bastava che me lo dicesse, invece no, mi sento giù, mi sento abbandonata, mi sento maltrattata. Quest'uomo è stato molto generoso, cara, ti ha dato una possibilità di uscire da una storia in maniera quasi indolore. Di fronte alla tragedia immane di un figlio morto, per te andava in secondo piano tutto ciò che era il rancore, il rimorso, il ripensamento, il cosa avrò fatto, il cosa avrà fatto e via dicendo. Potevi prenderti questa pietra tombale sulla vostra storia d'amore e fartene una ragione. E invece no, ancora ti chiedi perché mi ha ingannato. Ma non sarebbe stato un inganno più crudele dirti che magari, non so, doveva prendere un periodo di riflessione, dirti che magari doveva riacquistare la sua vita, dirti che magari in quel momento ti amava tantissimo, era innamoratissimo di te, però c'era qualcosa che non andava nel rapporto, avevate obiettivi diversi, e dirti che magari per dignità doveva chiudere questa storia. Ci sono mille scuse, tutte banali, tutte ormai logore e tutte miserevoli. Ha trovato una maniera epica, eroica per uscire dalla tua storia. Dici, ma perché l'ha fatto? Beh, adesso ti dirò qualcosa che ti farà molto male, ma è giusto che lo faccia, perché è giusto che tu guarisca. L'ha fatto perché non aveva le scatole piene di te, non ne poteva più di te. Quella storia per te era leggerissima, per lui probabilmente era un peso insopportabile, era avvelenato dalla tua presenza, doveva eliminarti. Dice, ma siamo stati bene fino all'ultimo, stavamo così bene, ci volevamo bene. Ma la storia, le storie d'amore sono delle storie di simulazione. La simulazione diventa implacabile e crudele quando uno comincia a pensare alla propria sopravvivenza. Quest'uomo probabilmente già da mesi pensava alla sua sopravvivenza, non ne poteva più di te, doveva liberarsi di te e voleva farlo in maniera indolore. Quindi è stata un'eutanasia, l'ha fatto per il tuo bene, si è inventato la cazzata del figlio morto. È stato un grande, dovevi lasciare stare che il suo piano finisse così. E invece ti chiederai ancora chissà per quanti mesi perché ti ha preso in giro e ti ha raccontato una bugia. Ogni storia d'amore nasce sulle bugie, ogni storia d'amore finisce, bene o male, sempre sulle bugie. Avete ascoltato Il treno va, conversazioni in viaggio con Gianluca Nicoletti, a cura di Fabrizio Intonti, sound designer Luigi Speciale.